Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata, buon venerdì a tutti da Deborah Rosciani e bentrovati a Salva Danaio. Allora, non è certo una novità quella che vi racconto. Come sapete bene, oggi il sistema bancario vive una crisi profonda, lo testimonia anche questa seduta di borsa molto negativa, soprattutto per i titoli del settore bancario di Milano, ma anche a Parigi. Oggi il calo è nettissimo sui titoli di questo settore. Una crisi arrivata dagli Stati Uniti, e anche l'Europa e l'Italia stanno attraversando il momento più difficile forse dall'inizio di questa turbolenza enorme. E forse questo, per qualche istituto particolarmente resistente agli effetti della crisi, può rappresentare l'opportunità di implementare l'offerta a favore del consumatore. E allora, questo è un po' lo stimolo che diamo oggi ai nostri ascoltatori. A che punto è la concorrenza bancaria nel nostro paese? A prescindere anche dalla crisi, se vogliamo, in vista del Forex, l'appuntamento annuale con gli operatori finanziari e il governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, quest'anno organizzato a Milano, proprio su questo tema domani propone una storia di copertina Plus 24 delle Sole 24 Ore. Ce l'anticiperà Paolo Zucca, caporedattore dell'inserto delle Sole 24 Ore dedicato al mondo del risparmio e agli investimenti. E con noi questa mattina ci sarà anche Giovanni Calabrò, responsabile della direzione credito e della direzione generale della concorrenza dell'autorità garante del mercato dell'antitrust. L'invito agli ascoltatori è di proporci i loro commenti proprio su questo tema. Come avete sfruttato le opportunità della maggior concorrenza bancaria, o ritenete che i benefici delle novità che hanno interessato il mercato negli ultimi anni non si siano poi trasferiti in misura sufficiente ai consumatori? 800 24 00 24 è il numero verde a vostra disposizione, ma ci potete anche scrivere al 349 238 6666. La borsa, dicevamo, oggi sono proprio dolori perché il quadro già pessimo in apertura si è andato via via deteriorando. Questa mattina le notizie che gli operatori stanno osservando delle quali stanno approfittando per continuare a vendere sono molte. Quest'oggi Parigi scende del 3%, Francoforte scende del 3,17%, Londra un po' meno 2,48%, anche se poi tra l'altro proprio a Londra ci sono dei casi sui quali gli operatori stanno focalizzando l'attenzione. Milano, S&P MIB -3,18%, MIPTEL -2,62%, un quartetto di titoli del settore bancario sta trascinando al ribasso Milano, appunto, Intesa San Paolo -7%, il titolo è finito sotto i 2 euro, il Banco Popolare -6,49% a 3,42 euro, Ubibanca, che nei giorni scorsi aveva detto noi stiamo praticamente azzerando le nostre posizioni a rischio su questa prospettiva, su questa circostanza, il titolo era cresciuto molto, oggi riperde tutto, -4,5 punti, Generali -4,60, Unicredito è finito sotto l'euro nominale, c'era questa soglia sulla quale stava resistendo, Piazza Cordusio l'ha persa questa mattina, il titolo adesso perde il 4,68. Naturalmente le vendite sul settore automobilistico non mancano neanche oggi, e Fiat anche oggi perde 4,5 punti. I titoli in positivo ce n'è solo uno da questa mattina che resiste bene, Luxottica +1,37, probabilmente sta beneficiando del rapporto di cambio favorevole, Terna +0,7, Snam Rete Gas +0,6, quindi qualche posizione sui titoli difensivi. Per il resto c'è la debolezza che sta imperversando ovunque. Questi sono i temi di oggi. Anglo American, il colosso del settore minerario a Londra, ha fatto sapere che taglierà 19.000 posti di lavoro da qui alla fine dell'anno, il titolo perde il 12,7% alla City in questo momento, mentre a Parigi è Saint-Gobain a perdere 16,5 punti, anche in questo caso per notizie legate ad un ampio piano di ristrutturazione che il gruppo deve mettere in campo per reggere alla crisi. Per il resto AXA, quindi banche, -14%, Crédit Agricole -8%, Société Générale -7%, BNP Paribas -6,5 punti. Paolo Zucca, devo continuare secondo te? Ma la situazione è veramente molto difficile, è possibile che ti fermi. Guarda. Lasciamo stare, allora andiamo al tema di questa mattina, torniamo a parlare di banche però da un punto di vista diverso, trascuriamo un attimo almeno per quello che possiamo l'andamento di borsa, parliamo della concorrenza, tutto quello che è successo nel mercato degli ultimi anni nel nostro paese, fra grandi aggregazioni, fusioni, ma anche arrivo nel nostro paese di attori stranieri, cosa si è mosso, cosa è cambiato, quali benefici per i consumatori. Aumentare la concorrenza tra le banche per aumentarne l'efficienza. Una questione sulla quale hanno puntato il dito più volte nel corso degli anni le varie istituzioni. Primo fra tutti il governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi. Concorrenza, ma non solo. La crisi finanziaria in atto, come sottolineato qualche settimana fa dal presidente dell'antitrust, Katri Kalà, ha posto in primo piano un altro fattore correlato, quello della tutela diretta dei consumatori finali. Con la riforma del risparmio, nata sotto la pressione delle scalate bancarie nell'estate del 2005, il controllo della concorrenza tra istituti è passato infatti sotto il controllo diretto dell'antitrust, che nel corso degli anni ha utilizzato i propri poteri principalmente sul fronte commerciale, e cioè bacchettando gli istituti poco inclini a consentire la portabilità dei mutui e ad abbassare le pretese sulle spese di conti correnti e scoperti bancari. Ma come si stanno comportando le banche? Bisogna considerare che la crisi finanziaria in atto non ha fatto che rendere ancora più dura la lotta tra i vari istituti per conquistare i consumatori. In una fase come quella attuale, caratterizzata da forte instabilità e incertezze diffuse, i clienti infatti cercano più di qualunque altra cosa di investire il proprio denaro in un porto sicuro e allo stesso tempo di risparmiare in termini di prezzo pagato e tempo dedicato. Come? Guardandosi intorno. E tutto questo spinge le banche a una maggiore competitività e a cercare nuove strade da percorrere. Tra le più recenti, per esempio, rientra l'opportunità di poter acquistare prodotti assicurativi direttamente allo sportello. Uno stratagemma che consente di offrirli alla clientela a prezzi ridotti del 10-20% rispetto al canale tradizionale dell'agenzia. Un altro comparto di potenziale espansione, e quindi di concorrenza tra sportelli, è quello della cessione del quinto dello stipendio, strumento che, se da un lato si rivela sicuro per la stessa banca, per lo scarso rischio di insolvenza del cliente, dall'altro consente a quest'ultimo di accedere ai prestiti a prezzi inferiori di quelli praticati dai mediatori creditizi. Abbiamo fissato alcuni punti nella nostra scheda, ma in realtà ad affrontarne ce ne sono tanti altri. Paolo Zucca, qual è il taglio dell'inchiesta che Plus24 propone domani ai lettori? Ma noi partiamo dall'idea che il risparmiatore abbia in questo momento una forza contrattuale molto forte, sicuramente più forte degli anni scorsi, per le cose che sono state dette nella scheda, per le pressioni delle authority, per le normative che sono state introdotte, per una maggiore capacità dello stesso risparmiatore di cercare in giro. E quindi ci siano le condizioni per strappare delle condizioni migliori alla banca. Non tanto quindi in questo momento come rotazione fra banche, perché noi rileviamo che soltanto un 7% di clienti cambia banca durante l'anno, ed è un dato che naturalmente un po' ci colpisce perché è stabile nel corso degli anni. Ci immaginavamo una movimentazione, diciamo, maggiore. Quindi adesso, diciamo, c'è un po' più di consapevolezza del fatto che forse anche in virtù della crisi si può prendere per la gola il direttore della banca e magari, a seconda del proprio rapporto, strappare delle condizioni migliori. Questo l'abbiamo visto negli ultimi mesi con il mutuo, magari anche gli altri ambiti, no, di rapporto si possono, sì, toccare. Speriamo, diciamo, non prendere sì, proprio per la gola, ma diciamo di andare con delle convinzioni forti. In questo momento, diciamo, la rilevazione che abbiamo fatto ci porta a dire che tutti sono più capaci di trattare con la propria banca, ma si tende a non cambiare banca, ed è molto interessante. Questo riguarda tra l'altro anche il settore assicurativo. E magari il dottor Giovanni Calabro, che saluto, buongiorno, tra l'altro molto maleducata, non ho ancora salutata, non mi capita spesso di farlo. Buongiorno a lei, è responsabile della direzione credito e della direzione generale della concorrenza dell'autorità garante del mercato, dell'antitrust. Certo, non è bello utilizzare il termine prendiamo per la gola il direttore della banca, però qualche volta l'antitrust in questi anni lo ha dovuto fare con il settore bancario, qualora le pratiche commerciali praticate non erano all'insegna appunto delle regole basi della concorrenza. Dottor Calabro, qualche volta siete dovuti intervenire. L'ultimo caso è stato quello relativo alla multa comminata appunto al sistema bancario per la mancata applicazione delle regole della portabilità del mutuo. Qui c'è stato poi l'annullamento del TAR del Lazio, ma in ogni caso qualche sanzione al settore è arrivata. C'è stato un miglioramento in questi anni? Voi avete un osservatorio privilegiato, dottor Calabro. Quali sono stati gli ambiti di miglioramento più evidente del settore bancario nel nostro paese a favore del consumatore? Guardi, i miglioramenti ci sono stati e sono stati notevoli. Innanzitutto, come diceva lei e anche il collega nella scheda introduttiva e nel quadro veniva fornito agli ascoltatori, è cambiato l'atteggiamento delle banche. Fino a qualche anno fa c'era un po' una situazione di sacralità, un timore da parte, diciamo, del correntista standard. Ovviamente non parliamo dei grandi risparmiatori, non parliamo ovviamente di coloro i quali da sempre sono stati coccolati dalle banche. Si andava in banca, magari si andava anche spesso, si riusciva a parlare con difficoltà con l'interlocutore, non si avevano risposte chiare. E comunque l'informativa veniva fornita dalla banca, pur nel rispetto della normativa di vigilanza per risposta alla Banca d'Italia, era un'informativa spesso farraginosa, molto articolata, che stante le asimmetrie informative non consentiva di valutare compiutamente il rapporto bancario. Poi le condizioni cambiavano, ricordiamo tutti, con una mera comunicazione in Gazzetta Ufficiale, cambiavano le condizioni economiche, si avevano delle nuove spese, eccetera. Il tema della variazione unilaterale delle condizioni del contratto, esatto, che è lo stesso molto è stato oggetto. È stato fatto, oggi occorre che ci sia un giustificato motivo, e questo lo ricordo sempre, se sia bancario lo ricorda bene, quindi non si può cambiare ad nutum senza una ragione delle condizioni, ma occorrono delle ragioni obiettive, specificate, dettagliate, ragioni specifiche, e che comunque occorre comunicarlo preventivamente al correntista, al suo indirizzo, al suo domicilio. E questo è un cambiamento epocale nel rapporto. Questo è solo uno degli aspetti. L'altro aspetto è che negli ultimi tre anni, tutti ricordiamo le grandi concentrazioni bancarie, il cambiamento anche strutturale del mercato, l'ingresso di nuovi operatori, e pensiamo a operatori anche internazionali che hanno acquisito una delle principali banche italiane, penso a BNP Paribas col caso BNL, pensiamo alle aggregazioni Intesa San Paolo o Unicredit Capitalia, molto è cambiato. Ma quello che è importante è che anche in questo momento particolare di crisi abbiamo visto che il contesto, la struttura del nostro sistema creditizio è una struttura nel complesso sana, dove abbiamo ancora adesso 36 banche popolari, oltre 400 banche di credito cooperativo, che hanno un collegamento proprio squisito, diffuso con il singolo territorio in cui operano e consentono quindi anche un contatto diretto tra risparmiatori e istituti. Quindi possiamo dare una definizione lampo, dottor Calabro, un regime concorrenziale in questo momento soddisfacente? Un regime concorrenziale sicuramente soddisfacente. E quello che ovviamente va migliorato è comunque una adeguatezza, far meno questa asimmetria, questa difficoltà che c'è nel rapporto tra banca e cliente, e su questo sia a livello di regolamentazione con interventi della Banca d'Italia, interventi di autoregolamentazione del sistema e se vogliamo anche la spinta continua dell'antitrust, si sta facendo molto. Penso per tutti, all'introduzione di un indicatore sintetico, l'ISC che ci dà il costo complessivo di un conto corrente, l'estratto conto facile. Non più tardi di un paio di giorni fa un grande banchiere diceva che anche lui qualche volta ha difficoltà con l'estratto conto, era ovviamente una battuta, ma in alcuni casi gli estratti conto non sono pienamente comprensibili. Ma guardi, io che faccio questo lavoro e che tante volte porto a salvadanaio degli ospiti che mi aiutino ad interpretare il linguaggio delle banche, io stessa faccio una gran fatica molto spesso ad orientarmi nelle varie voci che sull'estratto conto ci sono. Questo però non significa che si possa fare. Talvolta ancora qualche istituto, qualche banca continua magari, pensiamo al caso delle commissioni massimo scoperto, tanto per citare un esempio, continuava a far pagare oltre agli interessi passivi alla commissione di massimo scoperto anche in alcuni casi oneri ulteriori. Quindi è importante che ci sia chiarezza, che ci sia una rappresentazione continua di quello che è il costo del rapporto, non solo a livello preventivo quanto mi costa teoricamente un conto corrente, ma quelle che sono poi le spese effettivamente riportate mese per mese, trimestre per trimestre, in modo chiaro, distinto e se possibile in modo pienamente confrontabile, anche con l'utilizzo degli strumenti telematici che in questo indubbiamente facilitano la comunicazione. Esatto, perché tra l'altro abbiamo parlato di tutti quei fattori che hanno spinto di più la concorrenza negli ultimi anni, sicuramente il tema delle grandi aggregazioni, il tema dell'ingresso nel nostro paese di attori stranieri che avevano dei modelli consolidati altrove, che li hanno cercato di trapiantarli nel nostro paese, poi qualche volta qualcuno ha anche detto in realtà sono venuti in Italia solamente per copiare le brutte abitudini delle banche italiane, ma questo poi è un altro aspetto che affronteremo. C'è poi tutto il canale, Paolo Zucca, del settore telematico, quindi la banca online, che sicuramente ha dato una spinta ulteriore al miglioramento dell'efficienza della banca tradizionale. Infatti su questo numero di plus noi abbiamo un quadro di grande attività di questi gruppi online, di queste banche online con i conti online, che sono forse in questo momento gli unici in grado di strappare clientela alle banche tradizionali, quelle che abbiamo sentito citare, quelle locali. Con i conti di deposito ad alto rendimento. Queste sicuramente hanno un grande appeal. È chiaro che riguardano una parte della popolazione, non tutti sono ancora in grado di lavorare online. E soprattutto ancora c'è anche lì una grande resistenza da parte dei consumatori che ritengono che questi sportelli non funzionino nella stessa maniera di quelli tradizionali, ancora da parte di molti consumatori c'è bisogno del contatto proprio fisico con l'operatore, con l'impiegato. Vabbè, poi ognuno naturalmente fa la scelta che è più come dire, pertinente alle proprie necessità, però insomma anche questo forse è un luogo comune che dovrebbe sì, essere non necessariamente chiarito. Va visto come negativamente il contatto fisico, sono esigenze diverse. Chi può, chi vuole lavorare su internet può farlo con condizioni favorevoli. Allora, poi sentiremo anche qualche richiesta di qualche ascoltatore su questo. Laura da Milano, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Io vorrei contraddire quello che ha detto il dottor Calabò, perché come utente e come detentrice di due conti correnti in due banche differenti, devo dire che nonostante la legge Bersani, nonostante tutte le facilitazioni, la portabilità, tutte queste cose, le banche fanno esattamente quello che vogliono. Cosa le è successo, Laura? Ci argomenti un po' questa sua considerazione. Allora, ho chiesto la portabilità del mutuo a una delle mie due banche, diciamo, praticamente venivo a pagare una differenza di 50 centesimi. Ma questo secondo lei dipende dalla banca o dal fatto che comunque magari la banca subentrante non le poteva fare una miglior condizione? Qual è il problema? Il problema è che innanzitutto per fare la portabilità ho dovuto chiedere svariate volte appuntamenti con i vari funzionari bancari, eccetera, perché non sono spesso così disponibili. Infatti. Quindi perdendo anche ore di lavoro e compagnia bella. E poi praticamente ho trovato quattro funzionari che mi hanno detto tre cose diverse. No, Laura, tra l'altro, no, siccome lei ha detto, voglio contestare quello che diceva il dottor Calabrò. Il dottor Calabrò forse è intervenuto un po' di più sul tema dei conti correnti, adesso ci torniamo. Sulla portabilità. Sui conti correnti, sì, al di là di questo, anche sui conti correnti ho da dire, perché sui conti correnti certe volte io faccio veramente fatica a capire che cosa mi stanno scrivendo. Laura, sono problemi apertissimi. Ovviamente qualcuno ha trovato che nei cambiamenti degli ultimi anni ci siano stati anche dei cambiamenti positivi. Per qualcuno invece ancora, come dire, non c'è invece una convinzione in questo senso. Tra l'altro, come ho già specificato prima, dottor Calabrò, magari glielo faccio anche spiegare a Laura, proprio per la questione della portabilità, l'antitrust ha sanzionato pesantemente le banche, poi la multa è stata annullata dal TAR del Lazio, ma questo è un altro problema, perché evidentemente si ritenevano non ci fossero i presupposti appunto per infliggere queste sanzioni. Detto questo, però, voi eravate perfettamente consapevoli di quello che le banche non stavano facendo e di quanto mettessero in difficoltà i clienti che chiedevano lo spostamento del mutuo per condizioni migliori. Totalmente consapevoli che abbiamo avviato per la prima volta, diciamo, 23 procedimenti nei confronti, quindi, diciamo, di tutti i principali istituti bancari sostanzialmente contemporaneamente, quindi sono stati 23 procedimenti molto articolati e complessi. Le evidenze ovviamente variavano da caso a caso, ma c'erano in tutti i casi o delle omissioni o, diciamo, dei comportamenti censurabili, nel senso che erano delle pratiche commerciali scorrette, non si consentiva la portabilità o non la si consentiva con le modalità previste dalla normativa. Su questo però, a parte ovviamente siamo sub iudice, quindi nel massimo rispetto ovviamente della decisione del giudice amministrativo, di cui conosciamo per ora soltanto il dispositivo e siamo ancora in attesa ovviamente di ricevere la motivazione, e le motivazioni sono fondamentali in un caso del genere, direi che l'intervento dell'antitrust con questi 23 procedimenti sanzionatori, ma più in generale con tutta una serie di interventi, di segnalazioni, il risultato utile lo sta producendo, perché se è vero quello che viene lamentato la nostra ascoltatrice, e dispiace sentire che ancora ci sono queste problematiche pendenti, è pur vero che è cambiata proprio la filosofia. Ci sono banche che stanno proprio comportandosi attivamente e cercando di favorire la surrogazione, la portabilità, perché è diventata anche ovviamente una scelta commerciale. In passato ognuno si arroccava nella difesa dei propri clienti e quindi sostanzialmente per un motivo o per l'altro si tardava a realizzare la portabilità dei mutui. Io credo che oggi nel complesso l'atteggiamento sia mutato. Se permangono ancora singole resistenze, queste resistenze devono essere assolutamente superate, perché su questo credo che il sistema bancario sia concorde, non esiste alcuna giustificazione per mantenere comportamenti di questo tipo. Semmai adesso va realizzata e va realizzata senza spese di alcun tipo. Semmai quello che sta succedendo adesso, mi scusi se la interrompo, dottor Calabrò, dobbiamo dare la linea ai colleghi della redazione, il problema che si sta manifestando adesso è un altro, in realtà è l'erogazione del nuovo che sta avvenendo a condizioni di maggior difficoltà e di maggior costo. Eccoci ritrovati a Salvadanaio, che questa mattina esplora La concorrenza tra banche, cosa è cambiato negli ultimi anni? Quali sono gli ambiti di miglioramento che grazie alla maggior concorrenza si sono registrati? Quali sono ancora i passi da fare? Io avevo 7.000 euro sul conto corrente, in un anno mi hanno dato 70 euro, quindi evidentemente gli hanno riconosciuto un piccolo margine di interesse. Di spese del conto corrente spendo 100 euro, alla fine sono andato in banca e ho chiuso il conto. Quando lo hanno saputo, il direttore voleva farmi una proposta di avere un conto a zero spese e io gli ho detto che poteva farlo anche prima. Ora ho un conto online e sono contento. Saluti Roberto. Anche noi Roberto siamo contenti per lei. Adesso questo non è il tema della sponsorizzazione del conto online, il tema è che comunque fino a quando noi non ce ne accorgiamo è molto difficile, Paolo Zucca, che il direttore ci chiami per dirci: guardi, stai pagando inutilmente dei costi, fatti un conto corrente diverso. È molto importante, molto interessante questa testimonianza, che dimostra che si può cambiare banca. Purtroppo i dati dicono appunto che soltanto 7 su 100 cambiano banca e secondo noi è un indicatore ancora debole. Quindi, ci aspettiamo insomma una quota di abbandoni maggiore. Benissimo. Allora, sentiamo adesso per interagire con noi all'800240024 insieme, lo avete sentito, a Paolo Zucca, vice caporedattore di Plus 24 del Sole 24 Ore, Giovanni Calabrò, responsabile della direzione credito e della direzione generale della concorrenza dell'antitrust dell'autorità garante del mercato. Sentiamo Giancarlo da Asti, buongiorno. Sì, buongiorno. Io intanto vi ringrazio perché cercate di chiarirci sempre degli argomenti che a volte tanto chiari non sono. Infatti, ci proviamo almeno. Grazie. Io volevo chiedere questo, praticamente ho cambiato banca, ho fatto la portabilità del mutuo perché la banca originaria mi ha applicato uno spread e dopo pochi mesi dall'inizio del mutuo ha cartolarizzato questo mutuo, sì. E noi sostanzialmente abbiamo chiesto che ce lo riducessero, loro hanno detto che non potevano più fare niente perché era stato cartolarizzato. Falso, allora abbiamo deciso di cambiare banca. Infatti. A quel punto io posso fare anche nomi e cognomi con la BNL, dopo aver fatto una trattativa eccetera, siamo arrivati a concordare uno spread dello 0,95. Al momento della firma davanti al notaio, io sono venuto a sapere, mentre il notaio me lo leggeva, che lo spread non era 0,95 ma era 1,5. Sì, cioè 1,5 o 1,05? No, 1,50. Accidente, mezzo punto secco. Lì ad alzarsi e salutare tutti. Ecco, ha ragione. Purtroppo fa un mutuo, a volte magari lo fa perché... Ma Giancarlo, ma ci mancherebbe, guardi che è capitato anche a me, nel senso che, come diceva Paolo prima, adesso forse siamo in una condizione di maggior capacità anche di condurre una trattativa con la banca, ma quando siamo lì al punto, davanti ad un legale, davanti ad un notaio, davanti al direttore della banca, ad altre persone, io la capisco perfettamente, non siamo in grado di prendere delle decisioni tanto coraggiose. Dottor Calabrò, questa è una cosa che mi segnalano in molti ascoltatori. Adesso, il nostro ascoltatore in questione lo stava rinegoziando, quindi stava surrogando, se non ho capito male, il mutuo da una banca è passato ad un'altra e quindi aveva chiesto delle condizioni migliorative e lì si è trovato la sorpresa. Ma anche in fase di erogazione di un mutuo nuovo per chi ancora, perché poi ci sono anche persone che stanno continuando a comprare casa e a chiedere mutui per finanziare questa operazione, stipulano, come dire, oppure contrattano delle condizioni con la banca, passano 2 mesi, il tempo di arrivare al rogito e se ne trovano delle altre davanti al notaio. Le sembra corretto tutto questo? Guardi, ovviamente non sembra corretto, ma questa diciamo è la prima considerazione. E la seconda è cosa si può fare. Non sempre le condizioni vengono rese note preventivamente in modo... alcune volte vengono rese note solo verbalmente, vengono date le indicazioni, eccetera. Ecco, bisognerebbe forse cautelarsi se questi fenomeni non sono occasionali, come io mi auguro, ma se fossero invece dei fenomeni ripetuti, chiedendo che anche le banche, e questo andrebbe fatto... diciamo dai singoli istituti, ma forse anche richiesto dalla normativa di vigilanza, facciano delle proposte sempre per iscritto, in maniera tale da evitare le sorprese, perché lei capisce, se io arrivo al momento dell'erogazione e devo magari utilizzare quella somma immediatamente perché mi scade un termine per una compravendita immobiliare, no? Che è il caso classico, al di là della rinegoziazione, che è un caso ovviamente, o della portabilità, che sono due casi specifici, è ovvio che in quel momento non posso rimettermi a cercare un'alternativa, non ho il tempo materiale, quindi questi comportamenti, che mi auguro siano veramente eccezionali e che abbiano poi delle giustificazioni, adesso si stanno intensificando per la verità, ecco, però per il nuovo intensificando bisogna fare una grande attenzione. Quello che mi permetterei di suggerire è di avere sempre la proposta non verbale ma per iscritto, in maniera tale che uno possa poi contestare e se anche costretto a sottoscrivere il contratto puoi eventualmente valutare che azione successiva. È chiaro che una volta che si sottoscrive è sempre tutto più complicato, però io credo che se le banche mettono per iscritto le condizioni, il prezzo, perché poi alla fine qui ne stiamo parlando di prezzi. Oggi io penso, non so, le nuove erogazioni, per esempio, in cui abbiamo, no, dei tassi di riferimento. Oggi l'Euribor ha raggiunto il minimo storico degli ultimi, il tasso BCE, 90, il tasso che conosciamo del 2%, eccetera. Poi però se mi aumentano gli spread in misura considerevole, è ovvio che a quel punto il beneficio solo in minima parte viene traslato sul risparmiatore, che poi alla fine utilizza quel risparmio per l'acquisto di un bene essenziale qual è la casa. Ecco, è importante che ci siano delle politiche attente da parte degli istituti di credito, politiche competitive, ognuno faccia la sua, non ci può essere un prezzo fisso, non si può dire. L'importanza è che le condizioni vengano molto ben chiarite sin dall'inizio del rapporto e non cambiate in corsa. Condizioni competitive, non ci siano allineamenti, ecco, se prima c'erano degli spread di un certo tipo può cambiare il costo della raccolta per il singolo istituto, benissimo. Ecco, se poi tutti gli spread si allineassero su un unico valore, questo valore tendesse ad aumentare, chiaramente allora il dottor Calabrò è pronto ad intervenire. Credo che anche l'antitrust si interrogherebbe. Ecco, tra l'altro, dottor Calabrò, voi come avviate le vostre istruttorie sulla base delle denunce, non so, istituzionali? Per esempio, domani parla Mario Draghi, fa delle osservazioni su determinati fenomeni e voi li agite, oppure per esempio vi muovete anche su sollecitazione diretta del consumatore? Adesso, a parte quello che lei sente a Salvadanaio, magari oggi viene stuzzicato, insomma, da un tema che accomuna molti ascoltatori e molti consumatori, oppure potete ricevere anche delle denunce dirette? Noi, guardi, abbiamo innanzitutto anche noi una nostra, diciamo, c'è un call center, no? Quindi diciamo un primo momento di ascolto, c'è un call center dell'autorità che riceve segnalazioni telefoniche da parte ovviamente di chi lamenta una pratica commerciale scorretta, e queste le riceviamo in tanti settori, molte anche nel settore. È il numero verde che vedo sull'home page dell'autorità garante, così poi lo diamo magari, sì. Poi noi abbiamo una direzione tutela del consumatore con una direzione credito alla quale arrivano anche per iscritto segnalazioni o via mail ovviamente da parte dei risparmiatori, insomma dei soggetti comunque che lamentano, diciamo, di nuovo delle pratiche non corrette da parte delle banche. Più in generale invece lato concorrenza, che è il lato che io seguo più direttamente, perché abbiamo queste due grandi aree, da un lato tutela del consumatore e dall'altro tutela della concorrenza, lì noi ci attiviamo sia sulla base di segnalazioni che riceviamo appunto dal nostro interno, dal call center o dai singoli, diciamo, consumatori, ma anche molto spesso da parte delle imprese, perché il lato concorrenza, infatti, ci sono dei casi in cui abbiamo poteri d'ufficio in un ambito e nell'altro, e quindi poi noi possiamo agire anche sulla base di una mera notizia che abbiamo, quale che sia ovviamente il modo in cui l'acquisiamo. È ovvio che in particolare nella parte concorrenza le istruttorie sono sempre istruttorie molto articolate e complesse, per cui vengono fatte quando ovviamente ci sono riscontri alle segnalazioni che ci arrivano, e sono anche istruttorie che durano molti mesi, se non in qualche caso anche oltre un anno, e quindi è ovvio che come per esempio c'è capitato un potere di attivazione, noi ci attiviamo, ma ovviamente nei casi più rilevanti. Sulle singole condotte, sulle singole pratiche commerciali, invece l'attivazione è più immediata e diretta, e devo dire che noi riceviamo decine di segnalazioni proprio anche quotidianamente. Quindi, infatti, insomma, è un fenomeno su cui massima è l'attenzione da parte dell'autorità. Volevo farle ascoltare, così concludiamo anche il tema che stavamo affrontando prima, cioè quanto le banche adesso stanno facendo pagare un po' di più l'erogazione del credito. Paolo da Roma, noi forse abbiamo risposto già alla sua domanda, sì, però sì, infatti, se vuole dirci, sì. Diciamo su tutta la linea, perché erano due domande fondamentalmente: uno, come poter eventualmente, diciamo, informare l'autority di eventuali pratiche scorrette, o comunque riuscire a capire se quello che stavo subendo era una pratica commerciale o meno, proprio perché mi riallacciavo al discorso allo spread, perché naturalmente ora l'abbassamento sia dell'Euribor che della BCE, del tasso BCE, permette però di aumentare la forbice dello spread, quindi paradossalmente di mantenere quasi inalterato, se non migliorare la redditività delle banche sulle nostre spalle. Quindi era questa insomma la domanda, capire se è una pratica commerciale e quindi sta a noi cercare la migliore condizione tra gli spread applicati dalle banche, oppure qualora c'è una trattativa e si vede questa forbice aumentare è una pratica scorretta. E infatti Paolo, insomma, il dottor Calabro ha risposto, il tema è l'allineamento. Qualora lei interpellasse 10 banche e tutte si comportano nella stessa maniera, beh, qua è un atteggiamento che sicuramente ci deve suscitare un po' di sospetto. Eccoci qua, stavamo così arricchendo un po' la rosa degli spunti di cui poter parlare questa mattina con Paolo Zucca, vice caporedattore di Plus 24 del Sole 24 Ore. Il tema di stamattina è la concorrenza tra banche, cosa è cambiato negli ultimi anni, quali sono i problemi aperti in questo momento, anche alla luce di questa drammatica crisi finanziaria che a quanto pare tra l'altro ogni giorno ci porta dei temi nuovi, dei peggioramenti, perché anche oggi in borsa vedo una giornata pesantissima, un piccolissimo segnale di miglioramento, S&P MIB a Piazza Affari -2.87 e le vendite sono tutte concentrate sul settore bancario. Allora, Paolo Zucca, ci sono molti messaggi di ascoltatori, torniamo al tema dei mutui che abbiamo affrontato anche ieri, però magari questa domanda precisa si può collegare alla resistenza che ognuno di noi ha al cambiamento. Alcuni ascoltatori che hanno stipulato mutui a tasso fisso qualche tempo fa, proprio per la definizione fisso, temono per esempio di non poterlo più cambiare né con la propria banca né magari spostarsi per andare ad altre. Questo è anche qui un altro luogo comune? No, assolutamente, si può andare a ricontrattare, si può andare a vedere cosa offre un altro istituto, ci si può sganciare dal proprio istituto, che è un tema che forse non abbiamo trattato questa mattina, che è un po' un trauma forse, e tutti noi abbiamo altre cose da fare durante la nostra vita, però si può mettere in conto di poter cambiare interlocutore bancario. Io direi che non va vista come un momento drammatico, direi che un elemento di valutazione cosciente, razionale, non è un rapporto d'amore con la banca, è una reciproca convenienza. Per cui insomma muoviamoci un po' di più, se già in passato abbiamo imparato a guardarci intorno, adesso forse anche sulla scia della debolezza che qualche banca sta avendo possiamo strappare condizioni ulteriormente vantaggiose. Mamma quante telefonate, allora eravamo rimasti a Dante da Roma forse. Dante, buongiorno. Buongiorno, io stavo ascoltando quello che stavate dicendo e appunto volevo chiedere dei chiarimenti, perché mi è arrivata una lettera per esempio da una banca dalla quale ho solo addebitato così il mutuo, che mi avevano detto che era gratis dall'altro conto corrente, e qui c'è proposta unilaterale di modifica condizioni. Sì. Quando io ho un mutuo a tasso fisso che ho stabilito nel 2004 quando mi sono accollato. Ho stipulato. Dante, mi scusi, la sentiamo male, si è accollato? Unilaterale di modifica condizioni. Allora, aspetti un sì. Tasso fisso. Sì. E stabilito tutto, l'ho condizionato nel 2004 quando il costruttore mi sono accollato il mutuo, sì. E quando ho stipulato nel 2007, non capisco perché ogni tanto arrivano queste cose, che mi è successo pure dalla banca dalla quale io sono correntista, tramite il datore di lavoro, diciamo così, che ha stabilito delle condizioni, ed è forse anche per questo che il 7% cambia mutuo, perché spesso noi abbiamo tanti datori di lavoro magari grossi che vincolano un pochino, fanno delle condizioni, vincolano e magari sono buone. Io allora ho visto questa proposta unilaterale, poi sono andato allo sportello, dice quello che sta scritto nella lettera non vale, perché quella era una cosa per tutti i correntisti ma non vale per voi. C'è una confusione totale, quindi sì, volevo certo. Capire un po' se si fa chiarezza anche per tutti questi balzelli che arrivano, tasse governative, cose vore di 2 euro al mese. No, Dante, mi scusi, però quello che io non ho capito, quello che le è successo, le è stata imposta una variazione delle condizioni del mutuo? Unilaterale. No, c'è scritto proposta unilaterale di modifica condizioni. Quando io ho un mutuo fisso, e mi dice, come vede l'articolo 118 del decreto legislativo 385-93, tu, la banca deve provvedere a comunicare al cliente. Ma io sono un mutuo a tasso fisso, quindi non capisco perché mi arrivano queste cose allarmanti, che tra l'altro non cambia nulla. Infatti Dante, per la verità questa è una situazione un po' che sconcerta un pochino anche noi, non ho ben capita, mi pare strano che sia arrivata una proposta di modifica di condizione del mutuo a tasso fisso, poi in particolar modo adesso per i variabili sono arrivate le comunicazioni delle banche che hanno chiesto nei mesi passati se i consumatori volessero aderire alla convenzione Abitremonti e tutte le altre iniziative che ci sono state. Dottor Calabro, cosa ne pensa? In questo caso ci sembra... interpretare sì, la comunicazione annuale prevista dalla normativa di trasparenza, quella della Banca d'Italia, e quindi anche in caso, nel caso specifico in cui non c'è nessuna modifica delle condizioni, la comunicazione va data annualmente. Ho capito. Su questo però volevo dire, quindi tranquillizzare, ovviamente una volta verificato che non ci sia nulla in grassetto, no, che indica la variazione, tranquillizzare l'ascoltatore, come è stato tranquillizzato dalla banca, non è che la comunicazione non vale nel suo caso non c'erano variazioni e quindi ovviamente nulla mutava. La comunicazione ci voleva tanto però, normalmente va data. Quello che è importante però, e credo su questo avremo già dal governatore presto delle indicazioni, è che questo tipo di comunicazioni muterà l'orientamento di Banca d'Italia e di semplificarle proprio per evitare che ci siano questi misunderstanding. E questo è molto importante, proprio che lo stesso regolatore bancario stia immaginando una nuova forma di comunicazione molto più diretta, molto più semplice, molto più chiara, in cui nel caso specifico probabilmente nessuna comunicazione andrebbe data. Chissà tra l'altro se Draghi lo dirà domani, non credo Paolo, così altre cose da dire. Domani proprio penso che sia una giornata interamente dedicata a tutt'altro, peraltro al Forex è prevista anche la partecipazione di Alessandro Profumo, dell'amministratore delegato di Unicredit, che ma chissà appunto l'appuntamento quindi è tradizione da parte pensi del manager. Pensi che ci sarà? Beh, ma sai, sono interventi diciamo non... che non possono entrare diciamo, nel dettaglio dei singoli temi, che però danno importanti indicazioni sul sistema bancario, quindi ci aspettiamo un intervento di grande rilievo, proprio perché il momento è particolarmente difficile. Fra l'altro c'è un elemento che potrebbe incidere anche nella concorrenza, mi piacerebbe sentire il dottor Calabro su questo, è la presenza che sta crescendo dello Stato, degli Stati all'interno del controllo delle banche. Dottor Calabro, se questo è un elemento che può inficiare insomma in qualche modo. È un tema, ovviamente il tema del giorno è un tema molto delicato, quindi lo lascerei ovviamente ai governi e ai governatori. Detto questo, è chiaro che non ci possono essere dei trattamenti diversi a livello europeo, per cui quello che è importante è che, poiché gli interventi sono stati fatti in molti da parte di molti stati e molti sono pronti a farli, che ci siano gli strumenti pronti. Ci auguriamo tutti che non sia necessario. Paolo. Ecco, per tornare proprio a noi, Marco Liera sottolineerà sul numero di domani di Plus che alcuni degli istituti che sono molto vivaci, soprattutto in attività online, hanno avuto degli aiuti di Stato. Questo potrebbe naturalmente portare a una simmetria diversa. Tipo ecco. il conto arancio, quindi arancio, che è il classico tipo che è stato ampiamente ricapitalizzato dal governo olandese. Ci manca un minuto di tempo. Marco da Siena, ci può fare la sua domanda rapidissimo? Sì, buongiorno Debora. Niente, io ho un mutuo a tasso fisso stipulato nel marzo 2007, sì, e ho chiesto la rinegoziazione alla mia banca, l'Unicredit, sì, che non ha voluto neanche prendere in considerazione l'ipotesi. Lei ha preso l'ipotesi in considerazione, sì, l'ipotesi, sì, di andarsene? Sì, però volevo sapere se l'Unicredit era nei termini di legge così facendo. Io sto già considerando Marco, di andarmene, cioè, certo, ma Unicredit, diciamo, la regola di mercato che rischia di perdere il cliente, ecco, però può infatti dirle di no. Ecco, ma, questo infatti Paolo fa un pessimo lavoro in questo momento Unicredit, se non le risponde, se nemmeno le risponde, fa un pessimo lavoro. Infatti, tra l'altro, in questo momento, da quello che ci risulta, stanno dicendo molti no anche a mutui di nuova erogazione. In questo momento sta diventando un'impresa un po' troppo complessa per questa grande banca, anche erogare del nuovo. Comunque, un tema che magari torneremo ad affrontare di nuovo. Dottor Calabro, la ringrazio molto per essere stato con noi, per averci dedicato un'ora del suo tempo. So che avremmo dovuto parlare di tanti altri argomenti, conti correnti, il trasferimento anche dei conti titoli, anche quella è un'altra avventura, a volte un po' complicata per molti risparmiatori, però magari torneremo a spendere qualche parola anche su questo. Buona giornata. Grazie, buongiorno a lei e agli ascoltatori. Grazie molte, grazie Paolo, anche ci vediamo domani mattina in Fiera Milano al Forex. E noi torniamo naturalmente lunedì alle 8:15 con Soldi e Dintorni e alle 12 con Salvadanaio. Buona giornata.